Penso mi abbiate sentito dire più di una volta che si viene a messa anche, oltre che per pregare Dio, anche per essere istruiti nella nostra fede. E sarebbe interessante che ogni volta un cristiano venisse col desiderio di imparare. Oggi prendo dalla prima lettura, primo libro dei Re, capitolo 3, versetto 5, un brano che è straordinario, una vera perla. Davide è stato il più grande re ebreo, ha unificato il regno, ha messo pace, ha cercato di dare una buona stabilità politica, economica a questo regno. Il suo figlio, Salomone, gode di tutto questo, solo che sale al trono abbastanza giovane ancora. Ecco allora la sua preghiera che dice: Signore, io sono giovane e mi hai messo a capo di un regno che è esteso, che ha la sua importanza. Ti prego, se mi devi fare un dono, dammi la saggezza nel governare questo popolo, perché tu vedi la mia inesperienza, la mia giovinezza e la complessità di dover guidare un regno. A Dio piacque questa preghiera, perché non gli aveva chiesto né ricchezza, né salute, né vittoria sui nemici, né prosperità politica, ma gli aveva chiesto un cuore docile al Signore e sapiente. E così fu, la vita di Salomone fu così. Nella Bibbia troviamo diversi proverbi, noi li chiameremmo delle massime, attribuiti a Salomone, perché fu considerato un grande re e vennero anche governanti dai paesi vicini per ammirare, per godere della prosperità di questo re e del suo re e del suo entourage. Ma Dio gli disse: sei stato assennato nel chiedere questo, perciò io ti darò quello che tu mi hai chiesto, cioè la sapienza, la saggezza nel governare, e in più ti darò anche quello che non mi hai chiesto: ricchezza, potenza, salute, prosperità, vittoria contro i tuoi nemici. Fu un grande periodo di pace. Vale la pena, amici, soffermarci su questo esempio per portare a casa anche questa domenica questo insegnamento. Che cosa io devo chiedere nella preghiera a Dio? Beh, ciascuno di voi sa che cosa chiede. Il modello dovrebbe essere questo di Salomone, di chiedere la sapienza nel governare. Nel governare anzitutto noi stessi, perché noi dobbiamo governare il nostro carattere, i nostri istinti, la nostra vita. Nel governare chi ci è affidato, almeno una famiglia, forse a qualcuno gli è affidato anche una ditta, un'impresa, gli è affidato un'organizzazione. Dovremmo chiedere questa sapienza, questa maturità nel guidare. E il Signore poi ci darà anche tutto il resto. Io temo che tante volte sia lontana da questo ideale la nostra vita e la vita del mondo. Ritengo, dal guardarmi in giro, dal sentir la gente, che la prima cosa che si chiede è la salute, cosa straordinariamente bella, buona. Ma se non abbiamo la saggezza del vivere, vediamo un sacco di gente che scoppia di salute, ma che fa il deserto intorno a sé, nelle famiglie, nella vita, nella società. Noi abbiamo un modello, ed è Gesù. Noi dovremmo guardare a Gesù, e c'è una formula che vi sembrerà banale, quasi infantile, ma è infallibile. Di fronte a una situazione, rientrare in noi stessi, interrogare la nostra coscienza e dire: se ci fosse qui Gesù, come mi direbbe di comportarmi? O come si comporterebbe lui? Capite che a questo punto però dobbiamo fare un altro passo. Dobbiamo conoscere bene il modo di pensare e il modo di agire di Gesù. Io penso che dobbiamo fare ancora tanta strada e quando l'avessimo conosciuto dovremmo chiedere al Signore proprio la sapienza, non di dire come mi capita quando ragiono così con qualche persona singolarmente: ma io non sono mica Gesù. Questo lo vedo benissimo. È proprio questo invece che noi dovremmo chiedere. Se siamo cristiani, dovremmo dire come ha fatto Gesù. Io penso, cari amici, che se noi viviamo come ha detto Gesù, come si è comportato Gesù, questo mondo, diciamo almeno casa nostra, dove possiamo influire un pochettino di più, diventerebbe un piccolo paradiso. E si verificherebbe la frase del Vangelo che dice: chiedete anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto vi sarà dato con abbondanza. Cari amici, ho finito. Questa dovremmo mettere alla fine parola di Dio, e tutti noi rendiamo grazie a Dio che sia proprio così nel nostro cuore, amici.